pianoforte suona, suona per Antonio che è partito, suona per l'operaio licenziato, per queste vite qua. Suona pianoforte, suona per quell'Italia che non si abbatte, che ricomincia e riparte, per quell'Italia che conosce la lealtà. Suona pianoforte, suona, suona per Nicole e per Valerio, perché l'amore quando fa sul serio non si giudica. Suona per Luigi giù in Puglia, che difende e lavora la terra. Suona per questi eroi che comunque vada non mollano mai. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte, suona. Suona pianoforte, suona per Marta che vorrebbe un figlio, per Alessia che vorrebbe tanto aiutare l'Africa. Suona pianoforte, suona a tempo per Andrea che nel frattempo parla di un risorgimento che presto tornerà. Suona per Giovanna da Pavia che ha vinto la malattia. Suona per questi eroi che comunque vada non mollano mai. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte, suona. Suona pianoforte, suona per il cane abbandonato, suona per il laureato, per queste vite qua. Suona pianoforte, suona finché c'è vita in questi polsi. Pianoforte, non ti fermare, pianoforte, continua a suonare. Continua a suonare. Per Federico di Cosenza, che non ha perso la speranza. Suona per questi eroi che non si arrendono mai. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte. La la la la la la la la la la la la la. Suona pianoforte, suona pianoforte, suona pianoforte.